Capitolo 5. Anna stava tagliando dei gigli di giugno, da mettere poi in un vaso nella sua stanza, e un altro ne stava componendo di peonie, di Susan, che erano per la scrivania di Gilbert nella biblioteca. Il bianco lattio delle peonie, con piccole note di rosso sangue all'interno, come il bacio di una divinità. L'aria aveva smesso di starsene tranquilla dopo una giornata insolitamente calda per giugno, ma si poteva a malapena distinguere se il porto era argento o oro. «Ci sarà un tramonto meraviglioso stasera, Susan», disse Anna guardando dentro la finestra della cucina mentre ci passavano davanti dal giardino. «Non posso ammirare nessun tramonto, signora dottora cara, se prima non avrò finito di lavare i piatti», protestò Susan. «Per allora sarà tutto finito, Susan. Guarda che enorme nuvola bianca sale al di là della conca con la sua punta rosea. Non ti piacerebbe volare su in alto e andarle incontro?» Susan si immaginò di stare volando sopra la stretta e lunga valle con lo strofinaccio in mano verso quella nuvola. La cosa non l'attraeva, ma per un certo periodo era suo dovere dare reazioni alla signora. «C'è un nuovo malefico tipo di insetto che mangia il roseto», continuò Anna. «Dovrò spruzzare domani, vorrei farlo stasera, ma questo è proprio il tipo di sera che mi piace lavorare in giardino. Il giardino crescerà questa notte. Spero che ci saranno dei giardini in cielo, Susan. Giardini che siamo in grado di lavorare, voglio dire, aiutarli a crescere. Oh, ma niente insetti, sicuramente». «No, io credo di no. Ma un giardino integro non sarebbe veramente un divertimento, Susan. Un giardino lo devi lavorare, se no perde il suo significato. Voglio scavare, togliere le erbacce, trapiantare, trasformare, programmare, potare. E in cielo voglio i fiori che amo. Preferisco le mie viole del pensiero e la sfodelo, Susan. Perché non può continuare questa sera come le piacerebbe fare?» La interruppe Susan, pensando che quel discorso stava veramente diventando un po' troppo strampalato. «Perché il dottore vuole che vada con lui a visitare la povera vecchia Mrs. Paxton. Sta morendo e lui non può fare nulla per lei. Ha fatto tutto il possibile, ma a lei piace che lui passi ogni tanto. Oh, beh, signora dottora cara, noi tutti sappiamo che nessuno può morire o nascere senza di lui, senza il dottore da queste parti. Ed è una bella serata per un giro. Penso che farò una passeggiata anch'io, fino giù al villaggio, per rifornire la nostra dispensa, dopo aver messo le gemelle Shirley a letto e concimato la signora Aaron Ward. Lei non sta fiorendo come dovrebbe. Miss Blight è appena salita al piano di sopra, sospirando ad ogni passo e dicendo che le sta venendo uno dei suoi mal di testa. E quindi sarà una serata con un po' di pace e tranquillità, almeno. «Accertati che Jen vada a letto all'ora giusta. Disponi tu, Susan», disse Anna mentre si allontanava attraverso la sera, che era come una tazza che stava traboccando di fragranza. «Lui è davvero molto più che stanco, più di quello che pensa di essere, non vuole mai andare a letto. Walter non torna a casa stasera. Leslie ha chiesto se poteva restare da loro». Jem era seduto sui gradini della porta laterale, un piede nudo, agganciato sul ginocchio, ferocemente accigliato e per niente predisposto a nulla in generale. Un'enorme luna dietro il campanile della chiesa di Glen lo infastidiva in particolare. A Jem non piacevano le lune così grandi. «Fa attenzione alla tua faccia, che non si congeli mentre hai una simile espressione», aveva detto la zia Mary Blythe mentre gli passava davanti entrando in casa. Jem si accigliò, più tetro che mai. Non gli importava se il suo volto restava per sempre con quell'espressione. Sperava che accadesse. «Va via e non mi venire sempre dietro», disse a Nan, che era uscita piano piano verso di lui dopo che il babbo e la mamma se n'erano andati. «Brontolone», disse Nan. Ma prima di scappare via, posò sul gradino accanto una rossa caramella a forma di leone che aveva portato per lui. Jem la ignorò Si sentiva più che mai abusato, non lo trattavano bene in quella casa, tutti lo tormentavano. Non era stata la stessa Nan quella stessa mattina a dire: "Tu non sei nato a Ingleside come il resto di noi." Dee si era mangiato un coniglio di cioccolato quella mattina, anche se sapeva che era di Jem, e anche Walter lo aveva abbandonato, andando via a scavare pozzi nella sabbia con Ken e Percy Sford. Che divertimento! E lui che voleva tanto andare con Bertie per vedere il tatuaggio. Jem era sicuro di non avere mai voluto qualcosa così tanto in vita sua. Voleva vedere la meravigliosa barca a tre alberi con vele quadre che Bertie aveva detto stava sulla mensola del caminetto del capitano Bill. Fu un'enorme vergogna. Questo è quello che fu. Susan gli portò fuori una grande fetta di torta, coperta di glassa di acero e frutta secca, ma no, grazie. Disse Jem con durezza. Perché non aveva salvato del pan di zenzero e crema per lui? Si immaginò che il resto della famiglia se lo era mangiato tutto. Maiali! Affondò in un profondo abisso di tristezza. La banda era in cammino verso Harbour Mouth ormai. Non riusciva a sopportarne l'idea. Doveva fare qualcosa per regolare i conti con la famiglia. Per esempio, tagliare la giraffa di Dee. O cospargere di segatura il tappeto del soggiorno. La cosa avrebbe reso la vecchia Susan pazza. Susan, con la sua frutta secca, quando sapeva che lui la odiava sulla glassa. Doveva andare a fare un paio di baffi su quella foto del cherubino del calendario nella sua stanza. Aveva sempre odiato quel grasso rosa, sorridente, stupido cherubino, perché sembrava proprio Sissy Flagg. Che aveva fatto girare la voce a scuola che Jem Blythe era il suo innamorato. Suo? Suo? Sissy Flagg? Ah! Ma per Susan quel cherubino era delizioso. Scalpare la bambola di Nan, ecco che cosa avrebbe potuto fare. Sbattere via il naso di Gogo Magog, o entrambi. Forse questo avrebbe fatto vedere alla mamma che non era più un bambino. Giusto. Avrebbe aspettato fino alla prossima primavera. Lui le aveva portato i fiori per anni, anni e anni, fin da quando ne aveva quattro, ma non lo avrebbe mai più fatto, nemmeno la prossima primavera. No, signore. Oppure poteva, mangiare un sacco di piccole mele verdi su quell'albero precoce. Così sarebbe stato veramente male. Forse quello sì li avrebbe fatti spaventare. Oppure mai più lavarsi dietro le orecchie. Oppure fare smorfie a tutte le persone in chiesa domenica prossima. O mettere un bruco addosso a zia Mary. Un grande bruco a righe, peloso. Oppure scappare fino al porto e nascondersi su una nave del capitano David Reese. E salpare la mattina dopo in rotta per il Sud America. Allora sì, si sarebbero dispiaciuti. Non tornare mai più. O andare a caccia di giaguari in Brasile. Allora sì, si sarebbero dispiaciuti. No, lui scommetteva che non lo avrebbero fatto. Nessuno l'amava. Oh, c'era un buco nella tasca dei suoi pantaloni. Nessuno lo avrebbe riparato. Beh, a lui non importava. Lui avrebbe veramente fatto vedere a tutti nel Glen il buco. E avrebbe consentito alle persone di sapere come la sua famiglia lo trascurava. I torti della sua famiglia lo stavano sommergendo, soffocando. Era il vecchio orologio del nonno nella sala, che era stato portato a Ingleside dopo la morte del nonno Blythe. Un orologio considerato antico, risalente ai giorni in cui c'era una cosa che si chiamava tempo. Di solito a Jem piaceva, ma ora detestava anche quello. Sembrava stesse ridendo di lui. Ah, l'ora di coricarsi è in arrivo. Gli altri tuoi compagni possono andare ad Harbour Mouth, ma tu devi andare a letto. Oh, perché si doveva andare a letto ogni notte? Perché? Susan uscì imboccando la strada verso Glen e guardò teneramente la piccola figura ribelle. Non c'è bisogno di andare a letto fino al mio ritorno, piccolo Jem, disse con indulgenza. Io non vado a dormire stanotte, disse Jem furiosamente. Scappo, ecco, Questo è quello che sto per fare, vecchia Susan Baker. Scappo per andare a saltare nello stagno, vecchia Susan Baker. A Susan non piaceva essere chiamata vecchia, neanche dal piccolo Jem. A lunghi passi andò via in un cupo silenzio, pensando che quel ragazzino aveva bisogno di un po' di disciplina. Gamberetto, che l'aveva seguita fuori, sentendo desiderio di compagnia, si accovacciò sulle zampe nere posteriori, davanti a Jem, ma ottenne soltanto un'occhiataccia per le sue pene. Vattene, tu che stai seduto sul tuo sedere e mi fissi come zia Mary. Fila via! Oh, non vuoi? Allora prendi questo! E Jem scagliò la carriola di latta di Shirley che era portata di mano lì vicino su Gamberetto che fuggì con un flebile miagolio rifugiandosi in una siepe di rosa canina. Guarda che roba, anche il gatto di casa lo odiava. A cosa serve continuare a vivere? Prese la caramella a forma di leone. Nana aveva mangiato la coda e la maggior parte dei quarti posteriori, ma aveva ancora forma di leone. Poteva anche mangiarla. Poteva essere l'ultimo leone che stava per mangiare. Dopo un po', Jem aveva finito il leone e si leccò le dita e aveva deciso quello che doveva fare. Era l'unica cosa che un individuo potesse fare quando non gli era stato permesso di fare nient'altro. Capitolo 6. Jem scompare. Perché mai la casa è illuminata in quel modo? Esclamò Anna quando lei e Gilbert alle 11 girarono per entrare nel cancello. Ah, ci devono essere degli ospiti. Ma quando Anna si precipitò in casa non trovò nessun ospite, né si vedeva qualcuno. C'era una luce in cucina, nel soggiorno, in biblioteca, nella sala da pranzo, nella camera di Susan e la sala al piano di sopra, ma nessun segno di persone. Oh, cosa credi? Cominciò Anna, ma fu interrotta dallo squillo del telefono. Gilbert rispose, ascoltò per un momento e emise un'esclamazione di orrore. E corse fuori senza nemmeno uno sguardo ad Anna. Evidentemente qualcosa di terribile era successo e non c'era tempo da perdere in spiegazioni. Anna era abituata a quello, come moglie di un uomo che visita la vita e la morte, doveva esserlo. Con una filosofica scrollata di spalle, si tolse il cappello e il cappotto. Si sentiva piuttosto infastidita da Susan, che certamente non avrebbe dovuto andarsene e lasciare tutte le luci accese e tutte le porte spalancate. Signora, dottora, cara, disse una voce che non poteva essere di Susan, ma invece era la sua. Anna fissò Susan, per via del fatto che Susan era senza cappello e i suoi grigi capelli pieni di pezzetti di fieno, e il suo vestito era incredibilmente macchiato e rovinato, e il suo viso. Susan, che cosa è successo? Susan, il piccolo Jem è scomparso. Scomparso? Anna la guardava con espressione stupita. Cosa vuoi dire? Non può essere scomparso. È così, ansimò Susan, torcendosi le mani. Ero sui gradini dell'entrata laterale quando sono andata a Glenn. Tornai prima che facesse buio, ma lui non era lì. In un primo momento non ho avuto paura, ma non sono riuscita a trovarlo da nessuna parte. Ho cercato in ogni stanza della casa. Aveva detto che aveva intenzione di scappare. Oh, sciocchezze! Lui non lo farebbe, Susan. Ti sei preoccupata inutilmente. Deve essere da qualche parte, in casa, su, si sarà addormentato in qualche posto qui intorno. Ho cercato ovunque, ovunque, ho setacciato tutto intorno alla casa e nelle dipendenze. Guardi il mio vestito. Mi sono ricordata che diceva quanto sarebbe stato divertente andare a dormire nel fienile, così sono andata là e sono precipitata attraverso quel buco nell'angolo, in una delle mangiatoie nella stalla e sono caduta su un nido con le uova. È una fortuna che non mi sia rotta una gamba, se qualcosa si può considerare fortuna quando il piccolo Jem è introvabile. Annie ancora rifiutava di sentirsi turbata. Pensi che possa essere andato a Harbour Mouth con i ragazzi alla fine, Susan? Non ha mai trasgredito un comando prima d'ora, ma no, non credo che lo farebbe, signora dottora cara. L'agnello benedetto non disobbedirebbe. Mi sono precipitata giù dai Drew dopo che avevo cercato ovunque e Bertie Shakespeare era appena tornato a casa. Jem ha detto non era andato con loro. L'inferno sembrava abbandonare il mio stomaco. Lei lo aveva affidato a me, ma ho telefonato ai Paxton e mi hanno detto che eravate stati lì e non sapevano poi dove eravate andati. Siamo andati a Lowbridge a visitare i Parker. Ho telefonato ovunque pensavo poteste essere. Poi sono tornata al villaggio, ma gli uomini hanno iniziato a cercare. Oh, Susan, era necessario. Signora dottora cara, avevo guardato dappertutto, ovunque quel bambino potesse essere. O quello che ho vissuto stasera. Oh, il piccolo aveva detto che voleva saltare nello stagno. Suo malgrado, uno strano piccolo brivido investì Anna. Naturalmente Jem non poteva essere saltato nello stagno, quella era una sciocchezza, ma c'era una vecchia barca che Carter Flagg utilizzava per pescare le trote. Jem avrebbe potuto, con quell'atteggiamento di sfida della sera precedente, provare a imbarcarsi e a remare attraverso lo stagno. Spesso l'aveva desiderato e poteva anche essere caduto nello stagno cercando di slegare la barca. Improvvisamente la paura in lei prese terribilmente forma. E non ho la minima idea di dove sia andato Gilbert, pensò furiosamente. Che cos'è tutto questo chiasso? Chiese la zia Mary, comparendo improvvisamente sulle scale, con la testa circondata da un alone di pinzette e il suo corpo racchiuso in un drago ricamato sulla vestaglia. Non può un corpo mai riposare tranquillamente una notte di sonno in questa casa? Il piccolo Jem è scomparso, disse Susan ancora una volta, troppo stretta nella morsa del terrore per risentirsi del tono di voce della vecchia Blight. Sua madre si fidava di me. Anna era andata a cercare per la casa. Jem doveva essere da qualche parte. Non era nella sua stanza, il letto era intatto, non era nella camera delle gemelle, non era nella sua, era... non era da nessuna parte della casa. Anna, dopo un pellegrinaggio dalla soffitta alla cantina, ritornò nel soggiorno in una condizione che all'improvviso era simile al panico. Non voglio farti innervosire, Annie, disse la zia Mary, abbassando la voce tetramente, ma hai guardato nella botte dell'acqua piovana? Il piccolo Jack McGregor è annegato in una botte d'acqua piovana in città lo scorso anno. Io ho guardato lì, disse Susan, torcendosi le mani nuovamente. Io ho preso un bastone e frugato. Il cuore di Anna, che si era fermato alla domanda di zia Mary, riprese le sue operazioni. Susan rimise i suoi pezzi insieme e smise di torcersi le mani. Si era ricordata troppo tardi che la cara signora dottora non doveva essere turbata. Adesso cerchiamo di calmarci e di unire le nostre forze, disse con voce tremante. Come dice lei, cara signora dottora, deve essere da qualche parte, non può essersi dissolto nell'aria. Hai guardato nel deposito del carbone? E l'orologio? Chiese zia Mary. Susan aveva guardato nel deposito del carbone, ma nessuno aveva pensato all'orologio. Era abbastanza ad un bambino piccolo nascondersi dentro lì, ci sarebbe stato. Anna, non considerando l'assurdità di supporre che Jem era rannicchiato lì da 4 ore, si precipitò, ma Jem non era nemmeno nell'orologio. Ho avuto la sensazione che qualcosa stava per accadere quando sono andata a letto stasera, disse zia Mary prendendo entrambe le mani e premendole alle tempie. Quando ho letto nella Bibbia il mio capitolo notturno, tu non sai che il giorno può suscitare? Le parole sembravano proiettarsi dalla pagina, per così dire. È stato un segno. E faresti meglio a farti coraggio e prepararti al peggio, Annie. Può aver vagato nella palude. È un peccato che non abbiamo dei segugi. Con uno sforzo terribile, Anna riuscì a non uscirsene con una risata. Temo che non ce ne siano sull'isola, zia. Se avessimo Rex, il vecchio setter di Gilbert, che è stato avvelenato, troverebbe subito Jem. Credo che siamo tutti allarmati per niente. Tommy Spencer a Carmody è misteriosamente scomparso 40 anni fa e non fu mai trovato, sai? Oh, sì. Beh, fu trovato il suo scheletro. Qui non c'è niente da ridere, Annie. Io non so come tu puoi prenderla così con calma. Squillò il telefono. Anna e Susan si guardarono. Non posso, io non posso andare al telefono, Susan, affermò Anna in un sussurro. Non posso neppure io, dichiarò Susan categoricamente. Si sarebbe odiata per il resto dei suoi giorni per essersi mostrata così debole di fronte alla zia Mary, ma non poteva farne a meno. 2 ore in una terrificante ricerca e di fantasie distorte avevano reso Susan un vero relitto. Zia Mary, imperterrita, Andò impettita al telefono e sganciò il ricevitore. Le sue pinzette crearono la sagoma di un paio di corna sul muro che Susan, a dispetto della sua angoscia, pensò la facessero assomigliare proprio al diavolo. Carter Flagg dice che hanno cercato dappertutto, ma non ne hanno trovato ancora traccia, riferì la zia Blythe freddamente. Ma dice che la barca è nel bel mezzo dello stagno e non c'è nessuno dentro, per quanto può essere visto. Stanno andando a dragare lo stagno. Susan afferrò Anna appena in tempo. No, no, no, no, non ho intenzione di svenire, Susan, disse Anna attraverso le labbra bianche come cenci. Aiutami, porgimi una sedia, per favore, grazie. Dobbiamo trovare Gilbert. Se Jem è annegato, Annie, è necessario ricordare a te stessa che gli è stato risparmiato un sacco di problemi in questo disgraziato mondo, disse zia Mary, come per somministrare ulteriore consolazione. Io vado a prendere la lanterna e a cercare nei dintorni di nuovo, disse Anna, appena riuscì a stare in piedi. Sì, lo so che lo hai fatto, Susan, ma lasciami andare, lasciami. Non riesco a stare qui ferma ad aspettare. Oh, devi indossare una maglia allora, signora dottora, cara. C'è rugiada e l'aria è umida. Vado a prenderle quella rossa e su una sedia nella camera dei ragazzi. Aspetti qui finché non torno. Susan corse in fretta al piano di sopra. E pochi istanti dopo, qualcosa che può essere descritto solo come uno strillo echeggiò attraverso Ingleside. Anna e zia Mary si precipitarono al piano di sopra, dove trovarono Susan ridere e piangere contemporaneamente nella sala. Quanto di più vicino possibile ci sia mai stato a una crisi isterica di Susan Baker. Signora dottora, cara, lui è lì, il piccolo Jem è lì. Addormentato nel vano della finestra, dietro la porta. Non ho guardato lì, la porta lo nascondeva e quando lui non era nel suo letto io non ho pensato di guardare dietro la porta. Anna, debole ma sollevata dalla gioia, era entrata nella stanza ed era caduta in ginocchio davanti al posto a sedere nella finestra. Ben presto lei e Susan avrebbero riso sulla loro stupidità, ma ora ci potevano essere solo lacrime di riconoscenza. Il piccolo Jem era lì che dormiva, coperto con un afgano, il suo malconcio teddy bear nelle sue piccole mani abbronzate e il gatto gamberetto steso tra le sue gambe. I suoi rossi riccioli dispersi sul cuscino. Sembrava che stesse facendo un piacevole sogno e Anna non aveva intenzione di svegliarlo. Ma ad un tratto il piccolo aprì gli occhi, che erano colmi di stelle color nocciole, e la guardò. Jem! Tesoro, perché non sei nel tuo letto? Siamo stati in pensiero, non riuscivamo a trovarti, non abbiamo pensato di guardare qui. Ho voluto stendermi qui così potevo vedere te e papà entrare nel cancello quando foste arrivati a casa. C'era una tale solitudine mentre stavo andando a letto. La mamma lo sollevò tra le braccia e lo portò nel suo letto. Oh, era così bello essere baciato dalla mamma, sentirla rimboccare le lenzuola intorno a lui, con quei carezzevoli piccoli buffetti che gli davano un tale senso di essere amato. Cosa gli interessava vedere un vecchio serpente tatuato? Dopotutto, la mamma era molto meglio. La mamma più bella che chiunque avesse mai avuto. Tutti a Glen chiamavano la madre di Bertie Shakespeare Mrs. Seconda Scrematura, perché era tanto avara, e poi lui lo sapeva, perché lo aveva visto, dava schiaffi in faccia a Bertie per ogni piccola cosa. Mamma, disse assonnato, certo ti porterò dei Mayflowers la prossima primavera, ogni primavera, puoi contare su di me. Certo che ci conto, caro, disse la mamma. Beh, dal momento che per ognuno è finito l'attacco di agitazione, penso che possiamo tirare un sereno sospiro di sollievo e tornare ai nostri letti, disse la zia Mary. Ma c'era un certo bisbetico sollievo nel suo tono. È stato molto stupido da parte mia non ricordarmi della finestra, dichiarò Anna. Nasceranno delle barzellette su di noi e il dottore non ci permetterà di dimenticarle, possiamo esserne certe. Susan, per favore, telefona al signor Flagg e di che abbiamo trovato Jem. Se vorrà farsi una bella risata su di me, disse Susan felicemente, non mi preoccupo, può ridere di tutto ciò che vuole, ora che il piccolo Jem è al sicuro. Ma si potrebbe pensare ad una tazza di tè, sospirò zia Mary, radunando i suoi draghi attorno alla sua esile figura. Sarà pronto in un batter d'occhio, disse Susan vivacemente, e dopo ci sentiremo tutte quante meglio. Signora dottora, cara, quando Carter Flagg ha sentito che Little Jem era al sicuro, ha detto grazie a Dio. Non dirò più una parola contro quell'uomo. E non pensa che si potrebbe cucinare un pollo per domani a cena, signora dottora cara? Per fare una piccola festa, così il piccolo Jem avrà le sue focaccine preferite per colazione. Ci fu un'altra telefonata, questa volta da Gilbert, per dire che stava prendendo un bambino gravemente ustionato a Harbor Head per portarlo in ospedale in città e di non cercarlo fino al mattino seguente. Anna si sporse dalla sua finestra con uno sguardo riconoscente di buonanotte al mondo prima di andare a letto. Un vento fresco soffiava dal mare, una sorta di rapimento al chiaro di luna correva tra gli alberi nella conca. Anna ora poteva perfino ridere, con un fremito però dietro la sua risata. Il suo panico di un'ora prima e gli assurdi suggerimenti e macabri ricordi di zia Mary. Il suo bambino era al sicuro. Gilbert era da qualche parte lottando per salvare la vita di un altro bambino. Oh Dio, aiutalo. Aiuta sua madre, aiuta tutte le madri dovunque. Abbiamo così tanto bisogno di aiuto con i nostri piccoli, amabili, sensibili cuori e le nostre menti che guardano a noi per orientarsi, per amore, per comprensione. L'amichevole avvolgente notte aveva preso possesso di Ingleside e di tutti i suoi abitanti, compresa Susan. Chi, al contrario, aveva avuto desiderio di strisciare dentro a qualche piacevole, tranquillo buco, arrivandoci dopo di lui, cadde addormentata sotto il suo tetto, al riparo.